Allora, eccoci di nuovo in voce. Dunque, ieri sera lo abbiamo ricordato ampiamente, insomma, c'è stato questo passaggio, questa assemblea che si è appunto riconvocata ieri per discutere di come impostare questa campagna di solidarietà per i compagni e le compagne in attesa della sentenza di Genova. Noi siamo al telefono con un compagno, un nostro compagno, che ieri chiaramente era presente anche all'assemblea. E quindi con lui, insomma, cerchiamo di capire un po' come la si vuole condurre questa campagna, più o meno quali sono le idee che sono circolate in questo dibattito che ormai ci accompagna da un paio di settimane. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, innanzitutto parliamo del fatto che faticosamente si è arrivati bene o male ad un'idea di lancio di una campagna che comunque ritenevamo necessaria. In radio se ne è parlato parecchio, della necessità, non soltanto perché in qualche modo coinvolge direttamente anche persone conosciute a cui si vuole bene, a cui si è legati, però fondamentalmente si è pensato e si continua a parlare della necessità di fare una campagna che quantomeno rimetta al centro dell'attenzione il fatto che 10 persone rischiano di essere condannate a 98 anni più qualche mese totali, con pene che vanno dai 7 anni fino ai 15 anni per uno dei manifestanti. Una sentenza agghiacciante che si è basata fondamentalmente sull'imposizione del capo di reato che è di devastazione e saccheggio, di cui abbiamo parlato negli anni, di cui abbiamo continuato anche a parlare recentemente, di cui ha parlato appunto anche la radio recentemente, parlandone con avvocati e avvocate e tutti, un reato che poi è stato elaborato, mettiamolo così, Genova è stato un po' il campo di prova, i processi genovesi ai danni dei compagni, il campo di prova. E poi negli ultimi anni è stato cominciato a dare in maniera un po' scientifica, è stato usato un po' come clave e probabilmente verrà usata come clave nei confronti dei movimenti. C'è già una sentenza, ci sono già alcuni precedenti, ricordiamocelo che a Milano per i fatti dell'11 marzo del 2006 c'è già una sentenza che è andata in Cassazione, che ha visto condannare alcune persone per reati di devastazione e saccheggio, anche a Torino l'anno dopo per una manifestazione antifascista, due persone erano state condannate, anzi erano state incriminate con questo reato che poi è decaduto, e per fatti da stadio in questi anni è stato dato, ricordavamo, abbiamo anche ricordato sia Roma che Avellino, che hanno coinvolto alcuni tifosi appunto che si sono visti arrivare e piombare questa condanna. Si è ritenuto necessario dopo tre articolate discussioni non semplici di lanciare una campagna d'opinione, perché uno dei punti principali che riteniamo fondamentali è che queste 10 persone non possano andare a pagare per tutti, perché poi è questo quello che stiamo assistendo. Ieri sono uscite le motivazioni del proscioglimento per quanto riguarda l'ex capo della polizia, ora nominato sottosegretario, un uomo che negli ultimi 13 anni ha attraversato tutti i governi dal centrodestra al centrosinistra, ritornando poi nel centrodestra, assumendo poi degli incarichi sempre più importanti. Quest'uomo, nonostante poi inizialmente era stato condannato per aver indotto al falso di testimonianza un suo sottoposto proprio riguardante i fatti della Diaz, assolto poi in appello anche per questo, nonostante ci fossero delle intercettazioni abbastanza chiare nei suoi confronti che lo andavano ad accusare. Comunque ora abbiamo avuto l'ennesima prova che difficilmente lo Stato condanna se stesso, difficilmente lo Stato poi condanna chi esegue i suoi ordini. Di conseguenza tutto rientra nella norma della storia di questo paese, e quello che ci ha continuato a smuovere in questi anni non è soltanto appunto la solidarietà umana nei confronti di 10 persone, è anche semplicemente il fatto che riteniamo assurdo e importante far capire alle persone, alle migliaia di persone che erano a Genova eravamo 300.000 il sabato, il venerdì c'erano decine e decine di migliaia di persone, c'era un grande movimento con tutte le differenze possibili e immaginabili che aveva partecipato a quelle giornate. È successo quello che è successo, abbiamo raccontato, documentato e tutto, però a conti fatti quello che sarà quando uno metterà la sbarra e la parola fine su quella storia, conti fatti, rischiano che 10 persone saranno le uniche a che vedranno la propria vita segnata. Altre lo hanno avuto attraverso le torture da Bolzaneto, attraverso i testacci, tutto quello che è successo, che ora è anche abbastanza inutile andare a ripetere, però poi conti fatti si rischia oggettivamente che 10 persone si ritroveranno in carcere tra qualche mese. E questo credo che proprio come base comune su cui incontrarci con tutte le differenze possibili e immaginabili tra movimenti, è la base comune appunto su cui si sta cercando di muoverci. Allo stesso tempo, parallelamente, visto che non può che sarà una campagna in qualche modo d'opinione il più larga possibile, che cercherà anche di andare a coinvolgere tutti quei soggetti che hanno partecipato a quelle giornate, ma non soltanto, anche a chi si ritrova a fare le lotte sociali e chi si ritrova poi a combattere o a lottare nei propri territori. Ricordiamo che l'areato di devastazione e saccheggio rischia di essere imputato per i manifestanti Notav in Val di Susa. Comunque, fondamentalmente, riuscire anche a parlare e a discutere e a ragionare su quella che stanno su come lo Stato comincia a difendersi, oppure si è sempre difeso e lo sta facendo attraverso questo reato, che è un reato agghiacciante, che non sto qui a riassumere perché abbiamo altri tempi e spazi, lo facciamo spesso e volentieri. È un reato in qualche modo tra virgolette associativo, un reato che non basta essere coinvolti direttamente nelle manifestazioni o negli scontri, ma basta semplicemente trovarsi in quel luogo per poter essere condannati. Un reato che poi appunto è frutto del codice italiano, che poi viene diretta emanazione del codice Rocco e c'ha un po' quasi un centinaio d'anno, il codice Rocco, ricordiamoci, è proprio il codice fatto durante il fascismo. Queste due basi su cui si cerca di incontrarci e su cui si è cercato di incontrarci fondamentalmente andranno a produrre questa campagna, che sarà una campagna appunto sia d'opinione da una parte, che cercherà di coinvolgere i soggetti più diversi e più disparati, ma allo stesso tempo poi si dà spazio a tutte le varie realtà sociali di cominciare ad elaborare i propri ragionamenti e di ritrovarsi anche a discutere su come difendersi da questo reato, perché poi le cose vanno anche abbastanza di pari passo. Sappiamo bene che come radio c'è qualche idea andrà a vedere coinvolti anche gli avvocati e gli giuristi, che probabilmente negli ultimi anni sono stati anche tra i pochi, insieme ad alcuni pezzi di movimento, ad aver lanciato l'allarme riguardo i processi genovesi, riguardo quello che significava poi anche politicamente i processi genovesi. C'è un ritardo oggettivo che responsabilità di tutti, non possiamo far finta di no, ovvio che ci sono responsabilità diverse, sempre diverse. Detto questo, però, dico sul ritardo oggettivo, anche sul far montare la campagna c'è, però allo stesso tempo non vogliamo neanche stare più a crogiolarci, vogliamo investire il tempo rimanente per creare il massimo della solidarietà possibile nei confronti di queste 10 persone, appunto, tra compagne e compagni, tra il nord, centro e sud, che vanno poi appunto a colpire alcune persone, 10 individui di ogni dove d'Italia. Questo è un po' in breve il sunto di quello che si sta cercando di costruire e che probabilmente appunto vedrà vita entro breve. Si pensava, come ipotetica da base di lancio, l'11 giugno, quando ci sarà la sentenza della Cassazione per quanto riguarda la Diaz, non perché ci interessi, anche quella è una sentenza abbastanza scritta, lo sappiamo benissimo, ci si è arrivati a un processo abbastanza farsa che probabilmente andrà a colpire alcuni individui e alcuni sottoposti, ma non direttamente i responsabili, perché è un po' strano che vengano colpiti o incriminati in un apparato appunto verticistico come quello poliziesco i terzi o le quarte o le quinte linee, e non si colpisce mai chi dirige e chi comanda, in questo caso il capo della polizia, come da Genova il capo della polizia non avesse avuto nessun ruolo decisionale su tutto ciò che è successo. È un po' ridicolo. e le motivazioni ieri uscite riguardo il proscioglimento, anzi l'assoluzione, scusate, di De Gennaro, danno un po' il polso della situazione. Si è scelto quella data perché sarà una data che darà un po' di visibilità, si è scelto anche per sfruttare la solita, no, indignazione democratica che spesso e volentieri noi contrastiamo e che non ci piace e che non amiamo neanche, come, no, il cascare dal pelo sistematicamente quando ci si ritrova davanti a certe situazioni giuridicamente degli obbrobri. Appunto, sfrutteremo quella data, quei riflettori, per dire attenzione, Diaz o non Diaz, ci sono comunque 10 persone che andranno a pagare per tutti i manifestanti e soprattutto per tutto ciò che è successo, per la storia genovese, per i pestaggi, per gli arresti ingiustificati, per la mattanza della Diaz, per le torture di Bolzaneto e via dicendo. Credo che sia tutto, poi non so, c'eravamo entrambi, se c'è qualcosa. No, è certo, magari, ecco, potremmo provare, anche se questo però sta, diciamo, proprio nella natura proprio della campagna, che assumerà la campagna e che evidentemente ancora non è riempita di tutte le iniziative, insomma, che in realtà dovrebbero percorrere il tempo che ci rimane da qui alla sentenza di metà luglio, ma insomma le idee grosso modo sono quelle di farla attraversare sia da momenti, diciamo così, di visibilità dal punto di vista grafico, visivo, quindi della propaganda, dell'agitazione, e poi anche dal punto di vista culturale, musicale, artistico. Insomma, le idee sono tante in ballo, come dicevi tu, sono tutti tentativi per cercare di allargare per gradi successivi questo discorso, estenderlo alla cosiddetta società civile, insomma, perlomeno ci si prova. Quindi ecco, mi sembra che l'idea sia un po' questa, no? Tenere dentro un po' tutto. Cioè di lasciare comunque, appunto, lasciare grossissimo spazio poi a tutte quante le realtà, di andare anche a riempirle con i propri contenuti, perché non possiamo far finta che non ci sia una diversità anche tra noi che stiamo promuovendo questa campagna. Cioè la diversità, si lascia grande spazio alle realtà per dargli il loro taglio, per dargli anche il loro accento e trovare anche i loro modi di esprimersi sia in piazza e non, e questo ci sembrava fondamentale poi per ritrovarci, sì, magari attraverso degli appuntamenti comuni che si stanno in qualche modo discutendo e che speriamo entro breve di riuscire a fissare. Eh sì, perché insomma, lo dicevi pure tu, insomma, cioè a Genova c'erano tante anime anche lì, però poi alla fine è prevalsa una volontà ben precisa, che era quella di non somparlo quell'appuntamento, probabilmente perché rifletteva la consapevolezza proprio in quella fase che la questione del cambiamento sociale, più o meno radicale a seconda delle sensibilità, comunque poteva essere discussa e posta a quel livello, cioè a livello internazionale, transnazionale. Poi insomma da allora la mazzata è stata molto dura, però oggi bisognerebbe ritrovare proprio quegli stimoli lì, cioè proprio quello spirito di dire vabbè, all'epoca ci siamo comunque stati tutti perché era essenziale, trovavamo insomma assolutamente giusto starci, beh ora pure ci dovremmo stare tutti, e la campagna ha bisogno del contributo di tutti. Cioè mi sembra che questo poi è il discorso che, no, si potrebbe fare. Sì, assolutamente, ricordiamoci che quando ci fu la sentenza per l'allora processo ai 25, che poi questi 25 diventarono 10 perché 15 persone arrestate per i fatti di Corso Torino, se non sbaglio, diciamo del corteo del Carlini, del corteo dei disobbedienti, poi in appello sono state prosciolte da ogni accusa. Ricordiamoci che dopo la sentenza ci fu una grande manifestazione a Genova, parliamo di, se non sbaglio, ora magari rischio di dire una cifra inesatta, però parliamo di almeno 20 o 30 mila persone, ci raccogliemmo tutti quanti dietro uno striscione con scritto in ogni caso nessun rimorso, che era una frase che in qualche modo ci apparteneva un po' tutti, perché noi non avevamo, a parte la complessità della storia genovese, a parte anche le cose molto brutte anche a livello di movimento che ha prodotto la storia genovese, però in qualche modo riuscimmo a raccogliersi dietro questo striscione perché noi non avevamo rimorsi, ed è questo che tuttora ci piacerebbe che riassumessimo, no? Il fatto che non abbiamo nulla di cui pentirci, non abbiamo nulla di cui appunto andarci a vergognare per quanto riguarda le giornate genovesi in tutte le espressioni che ci sono state, e ci piacerebbe che ancora adesso la gente riprendesse quella dignità anche semplicemente per far fronte al rischio di una, al serio rischio di una condanna nei confronti di queste 10 persone, e dircelo chiaramente: noi non ci vergogniamo, noi non abbiamo nulla di cui andarci a qualche modo appunto a vergognare, e facciamo in modo che tutti quanti noi ci mobilitiamo per fare in modo che quella Cassazione annulli questo processo, che tra l'altro gli stessi avvocati hanno raccontato negli anni che è stato un processo farsesco, perché qui parliamo di un processo assolutamente pazzesco, in fondo si basava tutto su un reato, che è quello là di devastazione e saccheggio, che è un reato allucinante, che avremo tempo anche attraverso i microfoni della radio di continuare a spiegare, a raccontare, in modo che si crei veramente un dibattito che non sia soltanto un dibattito nostro, marginale, di movimento, ma che sia proprio un dibattito che venga messo un po' più al centro della politica, perché riguarda tutti, riguarda chiunque si ritrova a lottare, non c'è niente da fare, dai luoghi di lavoro alle scuole ai territori, riguarda, è una clave, rischia, una pericolosissima clave che hanno cominciato ad usare, e ci sembra che ci abbiano preso gusto. Hanno cominciato a Genova, dopo Genova mi sembra che si stiano prendendo abbastanza gusto, perché hanno trovato un po' il modo per punire nella maniera, nella peggiore maniera possibile. Cioè, tanto per fare un esempio, devastazione e saccheggio non fu dato neanche per i moti di Genova del 1960, ma neanche negli anni 70, no? Che vengono sempre assunti come gli anni degli scontri di piazza, però neanche in quegli anni sono persone incriminate per devastazione e saccheggio. Speriamo di farglielo passare questo gusto, se veramente ci hanno preso gusto. Noi temiamo di sì, insomma, per quanto sia difficile, di certo complicato, però insomma ci si deve provare. Va bene, allora noi tra poco daremo anche lettura del comunicato che è uscito proprio sulla campagna, ecco, proprio in chiusura. Credi che sia possibile poi che magari proprio a ridosso di quei giorni si possano muovere anche altre esperienze, magari anche al di fuori del territorio romano? Vabbè, forse insomma vado a toccare un tasto dolente, però ecco. No, io penso, l'appello che stiamo lasciando da Roma è un appello che non riguarda le strutture romane, è evidente. Quando stavamo ragionando in queste settimane su questa campagna, è evidente che questa campagna deve coinvolgere un po' tutti. Parliamo di tutta Italia, ma non soltanto, poi no, cercheremo di attivarci per rimetterci anche in contatto con chi a Genova c'era, e pensiamo ai tanti e tante europei e non soltanto che hanno partecipato in questi giorni. Se basti pensare che tra i 93 pestati, arrestati e massacrati alla Diaz, parecchi erano stranieri, tedeschi, spagnoli, americani, c'è stato un po' di tutto, anche appunto rimetterci anche in discussione insieme a loro e ricoinvolgere tutti quanti quei soggetti. Non può essere una cosa soltanto romana. Era evidente che il fatto che la Cassazione si svolgesse a Roma, che la Cassazione, Diaz, il processo al Sud Ribelle a fine giugno e poi appunto il nostro processo, come l'abbiamo sempre chiamato, quello di luglio, si svolgesse a Roma, ci mettevano in mano il cerino. Di conseguenza sta a noi accendere questo cerino e ricreare attenzione, ricreare mobilitazione, che deve essere obbligatoriamente il più allargata possibile. Quando parlavamo appunto di allargarla, era evidente che non si parlava soltanto delle strutture di movimento romane o della società civile romana, no, cioè, altrimenti penso che sarebbe un po' fallimentare se pensassimo che riguarda soltanto noi di Roma. Va bene, allora grazie per questa ricostruzione, riflessione. Noi ti salutiamo, insomma, ci si rivede presto, anche perché la campagna sta proprio in costruzione. Ciao Bizio, ciao. Ciao.